Società aperta, società dinamica, l'immigrazione italiana al bivio. Questo è lo slogan scelto dalla Caritas Italiana e Migrantes per presentare il 14° dossier statistico sull'immigrazione nel nostro paese. Un rapporto che va oltre la raccolta dei dati numerici e la loro interpretazione dal punto di vista statistico. Ne parliamo proprio con Franco Pittau, il referente del comitato scientifico del dossier statistico della Caritas. Franco Pittau, quali sono le principali fonti utilizzate per il dossier statistico? Le principali fonti sono il Ministero dell'Interno, che ha una raccolta di dati impressionante, che è molto disaggregata, relativamente veloce, insomma c'ha tanti pregi, c'ha anche qualche limite, e allora però noi, conoscendo i grandi pregi e questo limite, allora pensiamo che studiare l'immigrazione vuol dire ricorrere a tutte le statistiche disponibili e in questo caso ricorrere anche al censimento, che hanno i dati definitivi, l'hanno dato qualche mese fa, e poi ai dati dell'Istat e ai visti del Ministero degli Esteri, dove possiamo vedere come aumentano quelli che vengono per il ricongiungimento familiare. Poi in tutto il dossier ci sono anche altri dati, ci sono quelli della scuola, quelli della Banca d'Italia, quelli dell'Istat, dell'INAI e dell'INPS per il lavoro, e insomma tutti i dati che sono in circolazione noi cerchiamo di utilizzarli e di leggerli in una maniera complementare. La pressione immigratoria registrata in questo dossier, così come nei precedenti, risulta in aumento, non è diminuita. Perché? La pressione risulta un aumento. In quest'anno noi vediamo un aumento molto forte, però questo non dipende solo dai 107.500 nuovi venuti stabili che noi abbiamo calcolato, ma dipende anche dal fatto che sono stati registrati tutti quelli che si sono regolarizzati. Questo ha cambiato molto le cose, però noi dobbiamo mettere nel conto che l'aumento è destinato a diventare sempre più vivace, perché le ragioni che portano all'immigrazione, anziché essere diminuite, in molti contesti sono aumentate, e noi adesso abbiamo paura dall'immigrazione che viene dall'Africa, no? Però l'Africa è un continente scalognato dove veramente tanti potrebbero emigrare, c'è 500.000 di persone povere, e oltretutto ci fa anche molto bene, no? Quasi quasi bisognerebbe mettere la firma su questi flussi migratori contenuti, perché non è che siano così esagerati, no? E però man mano che metteranno da parte qualche soldo, questi inizieranno a girare di più, e questo è ineliminabile. Noi abbiamo calcolato che quelli che sono stati respinti o espulsi sono stati un po' di più di 100.000, un po' di meno di 110.000, tra 100 e 110.000, no? Però anche se questo l'abbiamo monitorato bene, quindi sono molto di più degli sbarchi, molte volte vengono presi gli sbarchi come il canale dei flussi irregolari più consistente, ma non è così, i confini terrestri sono molto più gremiti, no? E allora noi, pur studiando i flussi irregolari che la polizia riesce a individuare, però non siamo in grado di dire, rispetto a quelli che sono stati intercettati dalla polizia, quanti sono riusciti a entrare. Io sinceramente non lo so, se no sarebbe anche abbastanza facile, ma anno per anno, dire quanti irregolari nuovi sono costituiti. Il 2003 è stato l'anno della chiusura delle frontiere, eppure si sono registrate nuove presenze, nuove richieste. Quali sono le cause principali di questa pressione immigratoria? E ha senso effettivamente una politica che vuole in qualche modo chiudere l'accesso e tentare di sbarrare, ecco, le porte all'ingresso nel nostro paese? Dove c'è tanta povertà, diciamo, nessuno può impedire a uno di sognare una vita più bella. Dice, ma io faccio una legge più difficile, ma gliene importa tanto quando uno sta per morire o vive in condizioni che sono simili alla morte, tutto l'altro è molto secondario per lui, come puoi immaginare, no? Tu prendi dall'Africa, appena avranno un po' più di soldi, si potranno pagare il viaggio, tenteranno di emigrare. Non è possibile dalla Libia, se così sarà, che poi c'è anche un grosso punto interrogativo, e faranno giri più lunghi per via terrestre, però diciamo sono delle specie di fasi di compensazione. I flussi migratori, se venissero bloccati, senza che cambino le situazioni di vita in quel paese, sarebbero un disastro, perché ci sarebbe la causa e però noi priveremo l'effetto. Invece bisognerebbe dire: noi vogliamo meno immigrazione, per questo portiamo più sviluppo e aspettiamo che lo sviluppo si sviluppi. E tutto questo non si dice, perché dello sviluppo finora, sullo sviluppo si sono dette solo parole. Quali sono i paesi stranieri più rappresentati in Italia? Quali sono i comuni e le regioni nei quali si registra la presenza più numerosa degli immigrati? E al di là del dato, così magari capire se effettivamente poi questa presenza corrisponde a un effettivo inserimento dell'immigrato nella nostra società. Ma le regioni più affollate sono quelle del nord, perché ormai il 60% della popolazione è concentrata nel nord e in alcune province del centro. E perché questo? Perché si tratta della zona, dal punto di vista produttivo, occupazionale, più promettente, no? Quindi tu disegni un arco, no? Che si sposta dalla Trentino Alto Adige, dal Veneto, e tocca la Lombardia, diciamo un grosso polmone occupazionale, tocca l'Emilia Romagna, alcune province della Toscana, e poi tocca le Marche, regione molto interessante perché la produzione è molto delocalizzata, e tocca il Lazio, perché il Lazio è una grande città, è una grande area urbana con Roma, e quindi molti migrati si inseriscono nei servizi, e tocca anche una parte dell'Abruzzo, anche questo molto interessante, dove c'è stato uno sviluppo. E diciamo, questo è l'arco che attira, che dal punto di vista occupazionale ha un potere di calamita. E in questa fase attuale il fattore più incisivo è la capacità di attrazione che ha il mercato occupazionale locale. Su questo non ci piove, perché poi un immigrato deve vivere, dove non lavora non riesce a vivere, e la fisionomia in Italia è stata cambiata proprio dalla diversa capacità che hanno le regioni, perché una volta era il centro il più forte, specialmente Roma, però allora venivano in prevalenza donne di servizi, flussi di rifugiati. Adesso che questa migrazione di massa si è configurata come migrazione per ragioni lavorative, perché noi abbiamo bisogno di forze di lavoro aggiuntive, è chiaro che dove c'è più capacità produttiva c'è anche più attrazione di lavoratori. Poi, diciamo, questo porta a considerare i lavoratori solo braccio, ci può essere un pericolo, però di per sé il fatto che ci sia funzionalità tra mondo del lavoro e immigrazione per sé è un fatto positivo. Se poi questo si trasforma in un atteggiamento per cui il lavoratore immigrato è solo quello che lavora, non ha cultura, non ha religione, non ha tradizione, non ha patria, allora quella è una cosa da condannare. Dunque, mentre sono incerti e senz'altro difficili da definire le presenze irregolari, i dati sulla presenza irregolare in Italia degli immigrati, sicuramente è ancora difficile il percorso dell'integrazione per chi già possiede il permesso di lavorare e di vivere da straniero in Italia. Grazie a Franco Pittau, referente del Comitato Scientifico del Dossier Statistico della Caritas Italiana.